Mantova, ottobre 1073. Matilde era infelice, non riusciva a concentrarsi su nessuna delle questioni e delle attività che di solito assorbivano la sua mente e anche il suo cuore. Inoltre non faceva una sana dormita da settimane e non aveva nessuno con cui condividere il proprio tormento. Isabella si trovava a Lucca per sbrigare alcune faccende dell'ordine e per far visita ad Anselmo e al maestro. Sebbene Beatrice fosse un'abile consigliera e stratega politica, non era il tipo che discuteva con la figlia di problemi sentimentali. Questo era lo stato in cui Matilde fu trovata da Con, mentre vagava da sola al margine della foresta. Fece un balzo quando se lo trovò alle spalle. Dovresti essere armata se hai intenzione di addentrarti nel bosco senza scorta. Se io fossi stata armata, tu saresti ferito ed entrambi staremmo cercando di fermare il sangue. E io sarei contento di aver fatto così bene il mio lavoro, perché te ne stai qui da sola tutta imbronciata? Non sono imbronciata. Sì che lo sei. Matilde sospirò in modo teatrale. Mentire a Con era inutile tanto quanto mentire a Isabella. Entrambi conoscevano la sua mente e il suo cuore meglio di lei stessa. Sono 6 mesi che non ho notizie del Papa. E nemmeno di Gregorio. Spiegati meglio. Non è il Papa che ti manca, ma l'uomo? Ora ti sei spiegato meglio, sono patetica. Non sei patetica, sei innamorata. E che io sappia, all'interno dell'ordine questo è un sacramento. Si è completamente dimenticato di me, Con. E questo mi sta uccidendo. C'è qualcosa di peggio? Come può una cosa tanto bella essere anche così orribile? Oh, pensi davvero che lui ti abbia dimenticata? O sei tu quella che sta dimenticando qualcosa? Lui è il Papa, Tilde, il Papa, la guida spirituale del mondo. Grazie per avermelo ricordato, replicò brusca, perché è ovvio che la cosa non mi ossessiona già abbastanza. Con voleva rispondere seccato, ma trovò la pazienza. Vuoi sentire quello che penso o preferisci che ti lasci da sola, così potrai essere avvilita e consumata dall'amore quanto ti pare piace? Oh. So che non mi lasceresti mai da sola, anche se dici di volerlo fare, perciò ti ascolterò, presumendo che mi racconterai una storia che mi farà sentire un po' meno derelitta. Sei fortunata. Guarda caso, ho proprio la storia che fa per te, perciò sediamoci e ti racconterò la storia della principessa Nive dagli aurei capelli e del principe poeta noto come Oisin. Diede a entrambi i nomi la marcata pronuncia irlandese che Matilde amava tanto. La lingua celtica era così esotica e bella alle sue orecchie. A volte Con le recitava poesie religiose su Easa in liriche sillabe magiche. La principessa Nive era l'incantevole e affabile figlia di Manannan Meclir, il dio del mare, e viveva sulla sua bellissima isola occidentale chiamata Tírnog, che significa terra dei giovani. La madre di Nive era una regina del mondo delle fate e pertanto, come figlia di due immortali, la principessa non aveva neanche una goccia di sangue umano in corpo. Ecco perché suo padre la teneva sull'isola e non le consentiva l'accesso al mondo mortale, perché se Nive si fosse innamorata di un umano, ci sarebbero state delle conseguenze gravissime. Ma la bella Nive aveva sentito così tante storie sugli eroi e sui poeti leggendari dell'Irlanda che voleva disperatamente vederli con i suoi occhi. Aveva sentito le incredibili storie dei Fian, la banda di guerrieri che difendeva gli innocenti e proteggeva i deboli. E c'era un principe tra i Fian, un giovane di nome Oisin, che era famoso per la sua cavalleria, il suo coraggio in battaglia e il suo talento per la poesia e per la musica. Niv non aveva mai visto una creatura simile sull'isola ed era affascinata dall'idea che i maschi umani potessero essere esperti sia d'amore sia di guerra. Cose del genere non esistevano nei regni incantati dove non c'erano guerre e pertanto non c'era bisogno di guerrieri. E così, dopo tanti piagnistei, perché sappiamo quanto possono essere assillanti le ragazzine quando si mettono in testa qualcosa, no? Il dio del mare cedette alla preziosa figlia. Permise a Niv di prendere il suo magico cavallo bianco, una creatura che poteva sfiorare le onde e raggiungere la terraferma, e le raccomandò di non farsi vedere, di non avere contatti con gli umani. Niv acconsentì e il suo viaggio sull'acqua cominciò. Ora la nostra Niv era una brava ragazza e non aveva intrapreso quell'avventura per disobbedire al padre, ma mentre attraversava la foresta di Hazelwood, si imbatté in un gruppo di uomini. Erano giovani, forti e vitali perché erano i leggendari guerrieri della Fianna. Niv li osservò in silenzio dagli alberi, ascoltandoli discutere della loro vittoria nella battaglia per salvare un villaggio da un tiranno che stava terrorizzando le donne. Tutti gli uomini erano esemplari, ma uno spiccava in modo particolare. Era bello oltre ogni dire, con boccoli castani e occhi color zaffiro. Quando gli uomini tacquero, lui cominciò a suonare. Come Orfeo, quel bardo incantava con la musica e la poesia e Niv capì che in quel momento stava osservando il mitico Oisin. Rimase così ammaliata dalla sua musica che svenne e cadde da cavallo. Il rumore fece trasalire gli uomini che, essendo guerrieri, si precipitarono verso di lei impugnando le armi, ma fu il principe poeta a raggiungerla per primo. Fu Oisin a salvarla perché quello era il suo destino. Ora, devi ricordarti che Niv non solo era bella da morire, con gli aurei capelli che scintillavano al sole e gli sfolgoranti occhi del colore del mare, ma era anche immortale e allo stesso modo piena di magia. C'era un fascino in lei, un potere a cui nessun mortale poteva resistere. E così, quando gli occhi di Oisin incontrarono quelli di Niv, fra i due si creò subito un legame che non poteva essere spezzato. Nessuno dei due avrebbe mai dimenticato l'altro da quel giorno in avanti, ma ahimè, appartenevano a mondi diversi, no? Oisin la supplicò di restare con lui, ma Niv non poteva dare quella delusione a suo padre. Né poteva trascurare le responsabilità che aveva nei confronti del suo regno come principessa prediletta. A malincuore gli disse: "Il tuo mondo non è mio e il mio non è tuo." E si incamminò verso il destriero bianco che l'avrebbe riportata a casa. "Portami con te," la implorò Oisin, poiché non voleva che quella magica creatura lo abbandonasse, ma Niv non poteva perché lo amava troppo, vedi? Se Oisin fosse andato con Niv, non sarebbe mai potuto ritornare nel mondo mortale. Una volta che un mortale si avventura nei luoghi reconditi della magia e dell'immortalità, non può più tornare ad avere una vita umana, e questo, soprattutto se bacia una donna che viene dai regni incantati. E così Niv lo lasciò lì, nella foresta, con i guerrieri della fiamma, nel luogo a cui apparteneva insieme ai suoi compagni e alla sua musica. Aveva il cuore gonfio di tristezza, ma non gli chiese di abbandonare la sua vita esemplare per lei, né lei poteva lasciare la sua per lui. Ma per tutto l'anno successivo Oisin continuò a struggersi per la principessa e per il barlume di magia che gli aveva mostrato. La sognava tutte le notti e domandava ai suoi compagni d'armi che cosa avrebbero fatto loro al suo posto. Tutti all'unanimità gli dissero che trovavano l'aurea Niv del tutto irresistibile e consigliarono a Oisin di seguirla. "Ma non posso," replicò lui, "perché se seguo questa donna so che non potrò mai più tornare qui, nella terra che conosco così bene, dove tutto mi è familiare e sono considerato il più grande poeta e principe della mia gente. Non posso rinunciarci, non posso proprio, ci sono troppi rischi." Per un anno Oisin cercò di dimenticare la sua amata, ma invano. Lei tormentava i suoi sogni e i suoi ricordi al di là della sopportazione umana, e così nell'anniversario del loro incontro andò sulla riva del mare e scrisse una poesia per invocare il grande dio Manannan MacLir. Quando il signore del mare rispose, Oisin lo informò che aveva intenzione di sposare sua figlia e gli chiese umilmente il permesso. Manannan chiese a Oisin se aveva capito quali sacrifici avrebbe dovuto compiere per sposare Niv. Se aveva capito che una volta intrapreso il viaggio sulle onde in groppa al destriero bianco verso Tir na n'og, non avrebbe mai più rivisto la sua casa e i suoi amici. Doveva essere convinto di voler lasciare le vecchie abitudini per le nuove. Naturalmente, gli assicurò Manannan, la vita sull'isola era gioiosa e pacifica, piena di musica e di luce, era un'esistenza senza pari, una vita di pura magia e felicità e soprattutto di amore. Ma gli umani tendono a restare ancorati con tutte le loro forze al passato e a ciò che conoscono, no? Oisin sarebbe stato capace di lasciare tutto e di vivere felice con la sua immortale compagna? Perché anche lui sarebbe divenuto immortale nel momento in cui si fosse legato a lei nel matrimonio e nell'unione fisica? A quel punto Con fece una pausa per aiutare Matilde a fare i paragoni. "Mi lusinga che tu mi creda ammaliante come la leggendaria Nive," commentò lei con un sorriso sardonico. "Non ti sottovalutare, mia piccola Amazzone. Sei altrettanto affascinante e pericolosa, soprattutto per un uomo che ha così tanto da perdere come il pontefice. Perciò al momento Gregorio deve tenere presente che se compie quel viaggio decisivo in groppa al cavallo bianco, Se sperimenta il bacio immortale mistico di una donna del genere, non sarà mai più in grado di tornare nel mondo umano. Ecco perché non hai avuto sue notizie, Matilde. Perché sta lottando con un potente demone, il demone della sua stessa mortalità e tutto ciò che questo comporta. Matilde riflette per un istante e si rese conto che stranamente si sentiva meglio. I racconti di Colle facevano sempre questo effetto. Alla fine chiese: come va a finire la storia? Con sorrise. Oisin cavalca fino a Tirnanog e sposa Niv. Lì scopre che il mondo incantato è più meraviglioso di quanto si aspettasse e che la sua donna immortale è piena di amore e di piacevoli sorprese, cosicché non si annoia mai. Lui e Niv hanno un figlio di nome Oscar, che è la gioia della loro vita. E dato che Oscar è per metà umano e per metà immortale, è in grado di viaggiare fra i due mondi e prendere il meglio di ognuno. E i suoi genitori ne sono felici, perciò c'è un lieto fine, mia piccola Amazzone. Con evitò di dirle che la leggenda di Nive e Oisin aveva due finali, a seconda di chi la raccontava. Il secondo finale non era affatto così roseo, ma Con aveva deciso di rivelarle solo l'esito più felice, per risollevarle il morale. Certe scelte facevano parte delle responsabilità di un cantastorie. C'è un lieto fine che ti aspetta se solo avrai la pazienza e l'altruismo di Niv e lascerai che Oisin prenda la sua decisione, perché scommetto tutto ciò che ho che un giorno lui desidererà la tua presenza da impazzire e sellerà il cavallo bianco per attraversare le onde e venire da te. Nello Hierosgamos, la sacra unione degli amati, il divino è presente nella camera nuziale. Perché un'unione sia benedetta dal divino, tanto la fiducia quanto la consapevolezza devono essere espresse nell'abbraccio. Quando l'amata e l'amato si uniscono, celebrano il loro amore nella carne, non sono più due, ma una sola persona. Fuori dalla camera vivranno come amore espresso nello spirito. Fiano, nord di Roma, giugno 1074. Con sbagliava di rado quando si trattava di Matilde. Sarebbe passato un anno intero prima che Matilde e Gregorio avessero modo di cominciare l'iniziazione di Gregorio ai veri insegnamenti della via dell'amore. Il clima politico ostile in cui si ritrovarono subito dopo la sua investitura richiese la loro concentrazione come guide e come politici, senza lasciare neanche un briciolo di tempo per cose che esulavano dalla difesa del papato. Enrico IV rifiutò di censurare i suoi vescovi e di riconoscere la loro scomunica come ordinato da Roma, provocando un aumento delle tensioni fra la Germania e Roma. Matilde, dal canto suo, si dimostrò assolutamente fedele al Papa in nome dei suoi possedimenti, il che servì a far infuriare ulteriormente il marito. Goffredo continuò ad affermare i propri diritti come duca di Toscana, mentre era intento a servire Enrico IV e la battaglia fra moglie e marito divenne più aspra di tutti i conflitti che fermentavano in Europa. Ciò nonostante, Matilde era in Toscana e Goffredo no. Matilde comandava il popolo degli Appennini, cuori e spade, e Goffredo no. Continuava imperterrita a non curarsi minimamente di quello che diceva o faceva suo marito e a ignorarne l'esistenza. La cosa più scandalosa era che il Papa la appoggiava, rifiutandosi di riferirsi a lei come a una donna sposata e riconoscendola come governatrice della Toscana insieme alla sua nobile madre. Per quanto riguardava Papa Gregorio VII, Goffredo non esisteva al di fuori della Lorena. Alla fine, la natura sanguinosa della rivolta sassone negli stessi territori di Enrico costrinse la Germania a cercare un'umiliante riconciliazione con Roma. Le risorse di Enrico si erano esaurite e lui aveva sfruttato i suoi devoti nobili, compreso Goffredo, fino all'osso. Nel novembre del 1073 Enrico prestò un giuramento di fedeltà a Papa Gregorio VII nella città di Norimberga davanti a un pubblico che comprendeva alcuni legati papali. Si scusò per la sua disobbedienza e giurò di partecipare alle riforme della Chiesa da quel giorno in poi, come dettato dal Papa. Anche se Gregorio sperava che quella tregua durasse, era troppo saggio ed esperto per credere che il re non avesse pronunciato quel giuramento con le dita incrociate. Era un giuramento solo a parole, ma era venuto davanti a un vasto pubblico e almeno per un po' avrebbe ridotto Enrico all'obbedienza, per una questione di decoro. Come conseguenza della ritrovata fedeltà del sovrano al Papa, anche Goffredo fu costretto a ridurre il suo accanimento. Lasciò in pace Matilde e si concentrò sulle sue terre in Lorena e al nord. Dopo mesi di silenzio, all'improvviso il Papa cominciò a scrivere a Matilde ininterrottamente. La contessa toscana e Gregorio VII furono impegnati in un'assidua corrispondenza per i successivi 6 mesi. Il loro affetto reciproco stava crescendo, diventava più profondo, malgrado la distanza che li separava, o forse proprio grazie ad essa, poiché tali lettere erano di natura pubblica, erano scritte con un linguaggio cauto, eppure contenevano da entrambe le parti un profuso sentimento di adorazione, dietro una parvenza di discrezione. Matilde faceva riferimento spesso al suo grande e imperituro amore per San Pietro, e Gregorio esprimeva i suoi sentimenti in termini ancora più enfatici. Indirizzava le sue lettere a Matilde chiamandola mia figlia in Cristo, ma alcune delle sue frasi, come "Dovete conoscere l'amore che provo per voi", andavano ben al di là dell'amore filiale. Infine, la implorò quasi di ritornare a Roma con una lettera che diceva "Sono assai impaziente di avere ulteriori colloqui con voi, poiché desidero il vostro consiglio riguardo ai miei affari come sorella e figlia di San Pietro. Non fatemi aspettare ancora, ve ne prego." In risposta alla sua supplica, Matilde si recò in una villa privata a Fiano, nei pressi di Roma. Era impaziente quanto lui di avere, tra virgolette, ulteriori colloqui. Beatrice la seguì e così pure Isabella con il ruolo di accompagnatrice, perché alcuni avrebbero potuto trovare sconveniente che si incontrassero da soli in un luogo tanto privato, lontano dallo sguardo attento della corte papale di Roma, lontano da tutti, eccetto i membri più intimi e fidati delle loro cerchie ristrette. Le stanze che Gregorio aveva fatto preparare per i loro colloqui erano magnifiche, arredate in modo sontuoso e traboccanti di tessuti pregiati dell'Oriente. Erano degne del ricongiungimento di Re Salomone e della regina di Saba. Era un tentativo di seduzione intelligente e spudorato, perché anche se non era del tutto informato sulle usanze dell'amato ordine di Matilde, Gregorio sapeva bene che per i suoi membri tutti gli insegnamenti cominciavano con gli esotici sovrani delle scritture e con la loro leggendaria unione. Matilde era altrettanto preparata a interpretare il suo ruolo in quella sacra recita. Isabella, che era ancora una maestra in quella rappresentazione, passò ore a vestirla finché Matilde non fu una visione di seducente mistero femminile. La contessa arrivò nelle stanze private del Papa avvolta in strati di seta turchese, sopra un corsetto di damasco turco molto scollato e arricchito con pietre preziose. Veli traslucidi le coprivano il seno e i capelli dando un'illusione di decenza, ma tessuti con un materiale così sottile che sembravano quasi inesistenti. Le folte ciocche ramate erano state pettinate fino a brillare sotto il diafano velo ed erano del tutto sciolte, il che sarebbe stato scandaloso in pubblico. Fili di acquamarina e perle erano intrecciati ai soffici riccioli abbinati ai gioielli che portava ai lobi. La sua pelle era stata interamente profumata e cosparsa di essenza di rose, mescolata a olio d'incenso, mirra e nardo indiano della Terra Santa. Questa dispendiosa e sacra preparazione veniva usata sin dai tempi antichi, in conformità con il Cantico dei Cantici, per ungere la sposa in previsione dello Hieros Gamos. Al suo ingresso, Gregorio rimase senza parole. Il ricordo di quella donna lo aveva ossessionato per un anno, eppure, ora che si trovava di nuovo davanti a lei, si rese conto che la sua memoria non le aveva reso giustizia. Le baciò la mano. E lei fece lo stesso con il suo anello, ma per il resto mantennero una distanza appropriata mentre si sedevano sulle panche imbottite l'uno di fronte all'altra. Matilde cominciò, come Gregorio si aspettava, dalla leggenda di Salomone e della regina di Saba. Non c'era punto di partenza migliore perché quello era l'inizio di tutti gli insegnamenti relativi all'unione sacra. Di certo Gregorio aveva dimestichezza con il passo del primo libro dei Re, capitolo 10, che descriveva l'arrivo della regina di Saba a Gerusalemme, ma la versione estesa che veniva insegnata dall'ordine lo affascinò e lo stupì. I collegamenti con la loro situazione, due grandi capi di sesso opposto che si univano in un incontro di mente e spirito, erano inevitabili. Decise di metterla subito alla prova per vedere come avrebbe difeso quella pietra angolare della loro dottrina. Da dove proviene questa versione della storia? Di certo nulla nelle scritture lascia intendere che Salomone e la regina di Saba avessero instaurato un tale rapporto. Matilde aveva studiato quel materiale per tutta la vita. Lo venerava e lo conosceva benissimo come ogni altro insegnante ufficiale dell'ordine. La sua risposta fu fulminea. Primo libro dei Re, capitolo 10, versetti 2 e 3. E quando fu arrivata da Salomone, ella comunicò tutto quello che aveva nel cuore. E Salomone rispose a tutte le sue domande. Non ci fu niente che il re le tenne nascosto. La parola niente viene enfatizzata in questo passo delle scritture. Indica che Salomone, pur essendo il re più saggio e potente della terra, non ha segreti per questa donna. È un indice di profonda intimità, così come il fatto che lei comunichi tutto quello che ha nel cuore. Nessuna regina impegnata in una missione strettamente politica apre il proprio cuore a un uomo tanto potente. Ancora una volta questo implica una profonda intimità e, credo, una grande passione. I rimandi alla situazione che stavano vivendo aleggiavano nell'aria fra di loro, ma entrambi gradivano fin troppo la natura stuzzicante del gioco per affrontarlo in maniera più diretta. Forse, ma non ci dà una biografia così completa come voi sostenete. La loro storia è preservata così nel Libro Rosso, come tutte le tradizioni del nostro popolo che sono state tramandate e trascritte, ma vi sono riferimenti all'unione di Salomone e di Macheba anche nel Libro dell'Amore, che ci è pervenuto dal pugno dell'Apostolo Filippo. Questa non è una prova. Non mi arrischierei a fare una predica sull'essenza della fede proprio al pontefice, ma devo dire che in tutte le questioni dello spirito l'unica prova è nei nostri cuori. Né carta né inchiostro possono fornire la verità. Solo i nostri cuori possono dirci se quello che c'è sulla pagina, che sia della vostra Bibbia o del mio libro, è la verità. E ognuno, uomo o donna che sia, deve arrivare alla propria scelta. Gregorio cedette alla sua eloquenza. Sono ansioso di vedere questo libro sacro e forse di comprendere meglio come sia riuscito a darvi una fede così straordinaria. E io sono ansiosa di mostrarvelo. Dovete venire a Lucca in un futuro non troppo lontano, se i vostri impegni ve lo consentiranno, e confido che avremo l'occasione di studiare il Libro Rosso insieme. Dopodiché lo guidò nella versione dell'Antico Testamento del Cantico dei Cantici, dandogli una nuova interpretazione che era essenzialmente la più antica, attraverso gli occhi dell'ordine, tramite il loro libro sacro. I padri della Chiesa sostenevano che il Cantico dei Cantici, poema di natura palesemente erotica, scritto in origine presumibilmente da Salomone, ma in seguito trascritto di nuovo nel V secolo a.C., fosse un'allegoria dell'amore di Dio per il suo popolo e la sua Chiesa. Matilde sosteneva che fosse la prova definitiva che Salomone e Macheba, la regina di Saba, fossero il prototipo degli amanti per l'unione sacra e che fosse un poema epico contenente i più grandi misteri dell'amore, scritto in origine da Salomone, con la regina di Saba come musa. Infatti ci teneva a precisare il primo versetto che recitava così, il Cantico dei Cantici che è di Salomone. Gregorio fornì le tradizionali argomentazioni contro il cantico visto come inno all'amore erotico e fisico, insistendo sul fatto che per la Chiesa poteva solo trattarsi di un poema sacro sull'amore di Dio, per la Chiesa e per i suoi figli, soltanto amore divino. Matilde parò il colpo ancora una volta con l'abilità del chierico più erudito. Perché un significato deve necessariamente escludere l'altro? Il problema è che molte delle interpretazioni delle scritture accettate dalla Chiesa sono rigorosamente selettive. O il Cantico dei Cantici tratta dell'amore di Dio per la Chiesa che è divino, o tratta dell'amore umano che è profano. Ma questo non è quello che Gesù ci dice nel libro dell'amore. Egli ci dice che entrambe le cose sono vere e devono esserlo, che è attraverso il nostro amore umano che scopriamo il divino. Il divino è presente nella camera nuziale quando i veri amati si uniscono. È questa l'essenza che si trova per intero in uno dei primissimi versi. Ha ragione, ti amano. È questo che gli amati dicono quando trovano Dio al momento della loro unione. Perché una cosa del genere non può essere vera se è tanto bella? Ditemi una cosa allora, Matilde. Avete trovato Dio nella vostra camera nuziale? Matilde ammutolì per un istante, sconvolta dal fatto che Gregorio entrasse in un ambito così personale. Non si era mai avventurato su un simile territorio prima, in quel momento. Rispose nell'unico modo che conosceva, con sincerità. Sono stata costretta a sposare un uomo che non era e non potrà mai essere il mio amato. Non potrebbe essere nemmeno mio amico. Questa è la disgrazia di molte donne. Non conoscere mai il vero amore e di conseguenza essere private di questo particolare percorso che porta a percepire e a comprendere il divino. Ritengo che questi matrimoni combinati siano un grave crimine umano contro la dottrina dell'amore. Non ci sono state mai, neppure per un istante, né fiducia né consapevolezza nel mio letto coniugale. E la dottrina insiste sul fatto che entrambe debbano essere presenti affinché un'unione sia sacra. Perciò la risposta alla vostra domanda è no, non ho trovato Dio nella camera nuziale. Il pontefice la stava mettendo alla prova e lei lo sapeva. Dunque avete un rompicapo, non è così? Non avete mai conosciuto tale unione. Tuttavia, questo è il più alto sacramento per la vostra gente. Non siete spiritualmente completa se vi manca la conoscenza di questa unione, giusto? Ma cercare una simile esperienza fuori dal matrimonio è adulterio, è un peccato mortale. Come conciliare questo con il vostro benessere spirituale? Era preparata a quella domanda, aveva riflettuto su quel concetto innumerevoli volte. L'adulterio, come voi lo definite, è un peccato mortale all'interno della Chiesa Cattolica, questo è vero, ma l'adulterio viene definito in modo diverso nel libro dell'amore. La nostra scrittura afferma che ogni abbraccio che va contro il volere di un altro o che viola in altro modo lo spirito di fiducia e consapevolezza è adultero. Pertanto la maggior parte dei matrimoni combinati in cui le donne sono costrette a mettere a disposizione il proprio corpo contro la loro volontà costituisce vero adulterio, eppure questi sono sanciti dalla Chiesa e anche dalle leggi create dall'uomo. Come può il vero amore essere adultero se l'amore è il dono più grande che ci ha fatto il nostro benevolo Padre Celeste? Salomone e la regina di Saba non erano sposati, anzi, egli era sposato con altre, eppure non sono mai stati definiti adulteri. Questo perché il loro amore era una legge superiore. Com'è possibile che due anime, unite dal cielo all'alba dell'eternità, commettano peccato riunendosi nella carne sulla terra? Ricordate, nessun uomo osi separare quel che Dio ha unito. Vi dico che la legge dell'amore disobbedirà sempre alla legge dell'uomo, se e quando è necessario, e che ogni volta che Goffredo mi ha toccata, ha commesso adulterio, nonostante le leggi dell'uomo e della Chiesa lo definissero mio marito. Ma abbracciare l'altra metà della mia anima, per fondermi con essa completamente attraverso l'unione dei nostri corpi, come espressione di pura armonia, questo è un sacramento senza peccato, e resterò fedele a questa convinzione davanti a Dio nel giorno del giudizio. Sostenne lo sguardo di Gregorio, poiché nessuno dei due riusciva a trovare la voce dopo un simile discorso. Fu Matilde a continuare, trovando una zona franca, seppure in modo temporaneo, nella discussione sulle scritture. Il Cantico dei Cantici racchiude in sé gli insegnamenti dei sei modi per esprimere l'amore che Gesù in seguito evidenzia uno per uno nel suo Vangelo, la nostra più sacra scrittura. Sollevò il mento con una punta di alterigia quando usò l'aggettivo possessivo e uno di questi aspetti è l'eros, l'intensa e splendida espressione dell'amore fisico, l'unione sacra. Gregorio rispose alla sfida intellettuale con un certo sollievo, ora che si trovavano di nuovo su un terreno spianato. Ma ancora una volta state dando per scontato che i versetti del cantico abbiano connotazioni intime, fisiche. Le interpretazioni dei padri non dicono questo. Essi sono risoluti nell'affermare che questo poema non parla di amore sensuale. Matilde fece per replicare, ma per un istante si trattenne. Si sporse in avanti, lasciando che onde di soffici capelli ramati le cadessero sulla pelle di porcellana. I suoi occhi verde-azzurri scintillarono con una fervida intensità quando cominciò a recitare sottovoce il Cantico dei Cantici, senza mai distogliere lo sguardo dagli occhi di lui.